coming, big black wheels are humming. People waiting at the station, happy hearts are drumming. Ippoasi, la fattoria della pace di Marina di Pisa, è il più importante rifugio per animali liberati della Toscana. È un posto magico nel quale cavalli, asini, galline, maiali, pecore, capre, mucche, anatre, cani, spesso sfuggiti a condizioni di oppressione e di pericolo di morte, convivono in piena libertà, spesso condividendo spazi comuni, a prescindere dai confini di specie. È un luogo molto istruttivo perché consente di percepire ogni individuo animale per quel che è, con le sue inclinazioni e il suo carattere, e non per quanto vale o per come è considerato dall'industria alimentare o da quella delle pelli. Ippoasi ha attraversato un momento difficile dopo lo sfratto dalla vecchia sede, ma è riuscito a trovare un nuovo luogo un poco lontano, sempre nell'ambito del Parco di San Rossore, e lì si è da poco trasferita con i suoi 80 ospiti. Domenica scorsa Ippoasi ha ospitato un pranzo, una piccola festa per il trasferimento avvenuto. Ecco come Christian, uno dei fondatori, ha raccontato l'importante passaggio da una sede all'altra. Il trasloco è avvenuto appunto a gennaio, è stato per noi un momento molto molto delicato. Innanzitutto abbiamo costruito questo nuovo posto, seppur provvisorio, traslocato tutti gli animali e sono circa 80 e smantellata tutta la vecchia struttura in 15 giorni, tenendo conto che è stato fatto tutto esclusivamente da volontari, eccetto la ruspa che ha fatto le tracce del recinto, ci sentiamo di aver fatto una discreta cosa. E la cosa che ancora più ci ha dato grande soddisfazione è vedere che in questi 15 giorni Ippoasi è stata veramente un po' al centro di tutte le associazioni vegane antispecista d'Italia, ma anche non solo. In 15 giorni sono passati più di 200 volontari, chi è stato una settimana, chi è stato 10 giorni. Ogni giorno qua eravamo mediamente 15 persone a lavorare. La giornata del trasloco degli animali è stata un po' il giorno clou, giorno che ha visto magari qualcuno puntare un po' i piedi, e non so se appunto avete visto il piccolo video di Tombola, che è la cavallona TPR, che soltanto lei ci ha fatto impiegare 2 ore di tempo per montare sul camion. D'altronde un po' tutti la conosciamo, Tombola è una cavalla selvatica, quindi non c'è stato modo di approcciarci con capezza o altro mezzo, se non piano piano accerchiarla e invogliarla. Quindi Ippoasi l'11 gennaio si è trasferita definitivamente in questa nuova situazione concessa dal Parco di San Rossore, dopo un anno di battaglie. Il trasferimento fisico è stato collegato al trasferimento, una sorta di cambio di marcia, perché il progetto Ippoasi è nato sull'evoluzione di un centro ippico, per cui un centro ippico che a un certo punto le persone che lo hanno fondato hanno capito che l'approccio che era fino a quel momento con i cavalli, perché appunto si parla di un centro ippico, non era forse il più rispettoso, il più giusto da dare verso di loro. Quindi è nato Ippoasi, che inizialmente era semplicemente un recinto che conteneva 7 cavalli, un asino e forse 4 capre, non ricordo bene, che appunto erano state già allora salvate da un centro ippico in chiusura. Dopo un anno di riflessioni, anche insieme al veterinario Marco Verdone, che è l'altro pilone che appunto ogni volta non smettiamo mai di ringraziare profondamente, perché Marco ha veramente, in questo anno di passaggio che è stato tutto il 2009, ci è servito proprio per non solo non abbandonare quei cavalli che avevamo deciso di smettere di montare a cavallo, ma di aprire proprio le porte a animali che avevano una storia altrettanto simile, quindi salvati da qualche situazione di sofferenza, di maltrattamento. Quindi piano piano è nato il rifugio, che pian piano ad oggi si sta sviluppando ulteriormente, chissà dove pian piano arriverà, si è sviluppato in un progetto proprio, lo stiamo definendo un laboratorio di pace, perché per noi Ippoasi sta diventando un modo, innanzitutto di viverlo noi, quindi di mettere in pratica uno stile di vita pacifico e di rispetto verso il pianeta e tutte le forme di vita che lo vivono, e di divulgare il più possibile tutte quelle informazioni, quelle esperienze che noi stiamo vivendo e che magari le altre persone fuori, vivendo in città, vivendo in contesti dove non è possibile incontrare un maiale, non è possibile appunto riuscire a fare una carezza nella sua pancia, non riescono a sviluppare, e purtroppo la maggior parte appunto vive in queste condizioni. condizioni che poi sono peggiorate ulteriormente dalle televisioni, da tutti i media che chiaramente trasmettono la mucca viola abbracciata alla famiglia che è così felice di dare latte alle persone, oppure nei libri dei bambini dove si descrive il maiale che è brutto, sporco e cattivo, e chiaramente questi bambini possono altro che crescere con una certa distanza da questo meraviglioso e stupendo animale. E chi ha avuto la fortuna di conoscere un maiale, magari proprio uno dei tre che sono ospiti di Poasi, Peppa, Gorgo e l'ultimo arrivato Alfred, sa bene quanto siano vere queste parole. Per visitare i Poasi è necessario prenotarsi. Tutte le info sul sito ipoasi.org. Per chiudere un importante annuncio, questa è l'ultima pillola di Restiamo Animali, prima della pausa estiva. Ma niente paura, non molleremo la presa nemmeno d'estate. Dalla settimana prossima ci ritroveremo tutti giovedì mattina, ma alle 9.30 e per 15 minuti, nell'ambito del palinsesto estivo di Controradio. Quella di domenica alle 12 sarà quindi l'ultima puntata domenicale prima delle ferie, in attesa di riprendere a settembre. Gli appuntamenti con Restiamo Animali sono quindi domenica alle 12 e giovedì, non dimenticate, alle 9.30. Love now hasten, sweethearts stand and wait. Here and there and everywhere they're gonna be embracing.